Storie italiane. A est del sole, a ovest della luna, c'era una volta un povero contadino che viveva in una piccola e vecchia capanna in un villaggio lontano con moglie e figli. La sua figlia più giovane si chiamava Ra. Ra era tanto bella quanto saggia. Portava l'unico mulo del contadino al pascolo nella foresta all'alba e cantava tutto il giorno agli uccelli e ai fiori. Tornava poi al tramonto. Una sera, non appena era tornata e aveva finito di aiutare sua madre a cucinare la zuppa, bussarono alla porta di casa. Vado io. Il contadino aprì la porta e vide un orso in piedi davanti a lui. Per favore, non aver paura, signore. Non ti farò del male. Chi è, caro? Niente. Cosa vuoi? Vivo in un castello oltre le tre montagne. Mi sento solo lì. Ho sentito tua figlia cantare nella foresta. Ha davvero la voce di un angelo. Se cantasse per me ogni giorno, nel prossimo anno la pagherei così profumatamente che non conoscerai mai più la povertà e lei avrà tutto ciò che vorrà. Come posso mandare mia figlia via con un orso? Come puoi vedere, non sono un orso normale. Farò in modo che stia bene e che sia felice. Prima devo parlarle. Aspetta qui un secondo. Quindi il contadino rientrò e parlò con la sua famiglia. Nostra figlia non andrà con un orso. Ma mamma, dice che ci pagherà profumatamente. Abbiamo bisogno di soldi. Abbiamo bisogno di un paio di nuovi muli. Il tetto deve essere riparato, nuove scarpe e vestiti per tutti. Ma starai lontano da noi, Ra? È solo per un anno, mamma. Inoltre, non ti ricordi la profezia? Non può essere. Non si sa mai. Madre? Padre? Quale profezia? Una cosa che un indovino ha detto che sarebbe successa una volta compiuto i 18 anni. E hai compiuto 18 anni la settimana scorsa. Bene, che cos'è? Che una volta compiuti 18 anni avresti intrapreso un viaggio che ti avrebbe reso una regina. Che cosa? No, qualunque cosa sia, non posso lasciare mia figlia andare con un orso. Guarda, se questo orso fosse stato pericoloso, ci avrebbe attaccato. Padre ha ragione, penso di dover andare. Così Ra decise di andare con l'orso. L'orso le chiese di sedersi sulla sua schiena e di tenergli il cappotto mentre correva verso il suo maestoso palazzo. Ecco, questa sarà la tua casa per il prossimo anno, mia signora. E se avrai bisogno di qualcosa, suona solo il campanello d'argento e il tuo desiderio sarà esaudito. Ma per favore, non andare in giardino dopo il tramonto. Grazie, signor orso. Devi essere affamata. Vuoi uno stufato caldo? Mi piacerebbe molto. Ra mangiò finché non fu sazia e poi desiderò riposare perché era molto stanca. Ra suonò il campanello d'argento e immediatamente apparve il letto più morbido che ci fosse mai stato, con cuscini di seta bianca e oro. Ogni giorno Ra cantava all'orso al mattino e si sedevano a parlare tutto il giorno, ma l'orso svaniva poco prima del tramonto e non le diceva mai dove stesse andando. Una notte Ra non riusciva a dormire, quindi uscì per una passeggiata nel palazzo, quando improvvisamente sentì la musica più bella che avesse mai sentito. Da qualche parte nel giardino vicino alla fontana profumata, qualcuno suonava il violino. Non riuscì a vedere chi fosse. Voleva uscire, ma ricordò che l'orso le aveva chiesto di non andare nel giardino dopo il tramonto. Quindi si fermò dov'era e rimase incantata dalla melodia. Per mesi andò avanti così. Ra cantava all'orso di giorno e di notte andava ad ascoltare la musica suonata nel giardino. Era molto felice con l'orso, ma a Ra mancava terribilmente la sua famiglia. Divenne così triste. Una mattina... Le tue canzoni erano bellissime, ma sembravano così tristi oggi. Qual è il tuo problema? Qualcosa ti turba? Mi manca così tanto la mia famiglia. Sono passati mesi da quando li ho visti. Posso portarti da loro se vuoi. Lo faresti? Certamente, ma dovrei promettermi che non direi loro nulla di quello che hai visto qui. Lo prometto. Così l'orso riportò Ra a casa di suo padre, che non era più una vecchia capanna, ma piuttosto una grande dimora, e non c'era alcun segno di povertà in quella ricca famiglia. Tutti furono estremamente contenti quando videro Ra. Padre, padre! Ra, la mia bambina! È passato così tanto tempo! Come stai, figlia mia? E come sta il signor orso? Sto bene, signore. Tornerò domani a prenderla. Ci sei mancata così tanto? Allora, come va, Ra? Lasciala mangiare in pace. Ra, vieni in cucina con me, per favore. Aiutami a prendere il dolce. Non volevi lasciarla mangiare in pace? Finisci il tuo cibo. Vieni con me, Ra. Ra, allora dimmi, va tutto bene? C'è qualcosa di insolito che succede lì? Mamma, va tutto bene. Sono sicura, hai un bell'aspetto. Ma c'è qualcosa di insolito nella dimora dell'orso? Ra voleva dire a sua madre tutto sulla misteriosa musica che qualcuno suonava ogni sera. Lo voleva così disperatamente che in quel momento si dimenticò che l'orso le aveva proibito di parlarne. E così lo confidò a sua madre. Bene, ora quando tornerai al palazzo dell'orso, quando ascolterai la musica di notte, nasconditi dietro la fontana e rimani lì fino all'alba. Quando si laverà il viso, vedrai il suo riflesso nell'acqua e scoprirai chi è. Ma mamma, l'orso mi ha proibito di andare nel giardino. Bene, sei da lui per cantare e non eseguire i suoi ordini. Ora fa come ti dico. Quindi, la notte successiva, quando Ra raggiunse di nuovo il palazzo dell'orso, sebbene fosse stanca, rimase sveglia aspettando che la musica iniziasse. Quindi entrò in punta di piedi nel giardino e si mise dietro la fontana. All'alba guardò nell'acqua mentre la figura veniva a lavarsi il viso nell'acqua. Vide il viso più bello e più incantevole che avesse mai visto in vita sua. Cielo, sei così bello! Oh? Tu hai disobbedito a quello che ti ho chiesto. Mi dispiace, ma ero così curiosa. Se avessi aspettato solo un altro mese, avresti potuto liberarmi, ma ora la maledizione non potrà mai essere spezzata. Guarda, mi dispiace. Deve esserci qualcosa che posso fare. Sono diventato così a causa di una maledizione della strega Ellora. Vuole che io sposi sua figlia, perché pensa che sua figlia debba sposare l'uomo più bello del mondo. Quando ho rifiutato, mi ha lanciato questa maledizione e mi ha dato un anno per trovare il vero amore. Chi avevo trovata, Ra? Ma hai rovinato tutto e ora devo andare al suo palazzo. Mi piacevi, anche quando eri un orso. Non c'è modo di liberarti dalla maledizione? C'è un modo, ma è impossibile. Dimmelo e io lo farò. E allora vive in un castello ad est del sole e ad ovest della luna. Devi raggiungerci in 7 giorni e 7 notti. Questo è l'unico modo. Aspetta! Dov'è questo posto? Ra non era una che rinunciava, quindi camminò per 5 giorni e 5 notti nelle foreste più oscure, chiedendo a tutte le creature e agli uccelli che incontrava se sapevano dove si trovava il castello della strega Ellora, a est del sole e a ovest della luna, ma nessuno sembrava saperlo. Il 6° giorno vide una vecchia strega. Stai cercando il castello della strega Ellora, Ra? Sì, sai dov'è? Dicono che sia ad est del sole e a ovest della luna. Non so dove sia, ma qualcuno potrebbe aiutarti. Penso che dovresti andare a casa del vento del nord. Se qualcuno può saperlo, di certo è lui. Se qualcuno può portarti lì, di certo è lui. Grazie! Come vado a casa del vento del nord? Il mio cavallo ti porterà lì. Quando sarai là, sussurra all'orecchio di tornare a casa e lui tornerà da me. portalo con te. Potrebbe esserti d'aiuto. Grazie mille! La vecchia fischiò e apparve un cavallo. Ra lo cavalcò molto, molto lontano, fino a quando non arrivò a casa del vento del nord. Dei 7 giorni e 7 notti che aveva per raggiungere il castello di Ellora, a est del sole e a ovest della luna, questa era la 6ª notte. Disse tutto al vento del nord. Il castello ad est del sole e ad ovest della luna. Ci sono stato ma una volta sola ed è così, così lontano. Per favore, signor vento del nord, devo arrivarci entro domani sera. Avrò bisogno di tutta la mia energia ed anche di più per arrivarci. Dovrò passare tutta la notte a prepararmi per il viaggio. Partiremo alle prime luci dell'alba. Fino a quel momento riposa qui. Così Ra riposò nella casa del vento del nord e la mattina dopo, alle prime luci dell'alba, insieme partirono verso il castello a est del sole e a ovest della luna. Volarono tutto il giorno e la maggior parte della notte, fino a quando finalmente raggiunsero il castello di Ellora. Bene, eccolo. Non posso volare nemmeno un poco di più. Devi andare da sola ora. Grazie, signor vento del nord. Grazie mille. Ora vai avanti. Mancano solo poche ore all'alba dell'ottavo giorno. Ra corse al palazzo e Ellora la vide arrivare e fece rinchiudere il principe in 7 prigioni per tenere Ra lontano da lui. Bene, sei arrivata fino qui, ma hai raggiunto solo il castello ad est del sole e a ovest della luna e non il principe. Dov'è? In 7 prigioni. Se riesci a raggiungerlo prima dell'alba, parleremo della maledizione. Portami dove sono le prigioni e fammi rimanere da sola. Ottimo! Quindi le guardie di Ellora la portarono alle 7 prigioni e la lasciarono lì. Lì, nella 7ª prigione, c'era il principe. Quando fu sola, Ra prese la chiave che la vecchia le aveva dato. Aprì ciascuna delle 7 porte e raggiunse il principe. Tu sei qui? Sì, ti ho raggiunto. Ora la maledizione verrà rotta. No, non ancora. Ellora deve avere un altro asso nella manica. Bene, bene. Sei riuscita a raggiungerlo, vero? Bene, bene. Bello sforzo. Quindi ora sarà libero dalla maledizione, giusto? Sei nel mio castello, nella mia prigione, e ti aspetti che ti liberi. Deve sposare mia figlia. Ma le condizioni erano... Come dice la maledizione, se il mio amore arriva da me prima della fine di 7 giorni e 7 notti, posso scegliere chi sposare. Bene, la maledizione dice che se il tuo amore ti raggiunge prima della fine dei 7 giorni e delle 7 notti, puoi porre una condizione che la tua sposa deve soddisfare per divenire tua moglie. E non c'è condizione che mia figlia non possa soddisfare. Non amo tua figlia. Non sarà mai felice con me, allora. Amore, tutte quelle sciocchezze. Dimmi la tua condizione. Bene, allora lascia che l'amore sia la condizione. Quando due persone si amano, i loro cuori si muovono insieme. E quale modo migliore per valutarlo se non con la musica? Mia figlia canta magnificamente. Condizioni approvate. Quindi al principe venne dato il suo violino. La figlia di Ellora provò a cantare insieme al violino, ma non ci riuscì. La la la, io te per sempre. Ferma! Ferma quel suono orribile! A quel punto Ra iniziò a cantare. La la la la la la. Siamo fatti per stare insieme. Il principe suonò e Ra cantò. E insieme crearono una melodia così meravigliosa che persino Ellora ne rimase estasiata. Non capisco. Anche mia figlia canta magnificamente. Ma allora perché non è riuscita a cantare con il principe? Perché non ci amiamo, madre, e quindi i nostri cuori non si muovono insieme. Invece lo fanno quello di Ra e del principe. Lascia che si sposino, madre. Liberalo dalla maledizione. Quindi Ellora liberò il principe dalla sua maledizione e lei e sua figlia svanirono per sempre chissà dove. Ra e il principe lasciarono il palazzo e vissero per sempre felici e contenti.